Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Oggi parliamo di pubblicità amiche dei bambini, di spot e campagne che tutelano l'immagine dell'infanzia. Spot e campagne premiate con un riconoscimento che viene assegnato ogni anno da un'importante organizzazione impegnata nella difesa dei diritti dei bambini. Si tratta del Child Guardian Award di Terre des Hommes. Nel focus sui trend spazio invece ai consumi disconnessi. Parleremo di tutti quei prodotti e servizi che ci aiutano letteralmente a staccare la spina. Iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Gli italiani stringono la cinghia soprattutto sui trasporti e sulla spesa alimentare. È quanto emerge dall'indicatore sui consumi della Confcommercio. Secondo il Codacons, almeno un terzo delle famiglie non riesce più ad acquistare tutto il cibo di cui necessita. Per avere consumi alimentari così bassi, sottolinea l'associazione, bisogna tornare alla fine degli anni 70. Passare troppo tempo su Facebook non aiuta le relazioni. A dirlo questa volta non è uno studio, ma lo stesso social network, che in un messaggio pubblicato sul proprio profilo scrive: «Le torte di compleanno sono fatte dalle persone per stare insieme, mangiarne troppe fa male e Facebook è molto simile alle torte». Il celebre coccodrillo Lacoste passa in mani svizzere. La famiglia francese esce completamente dal gruppo, consegnando la maggioranza del capitale all'elvetica Mos Frères. A determinare la svolta del marchio, creato nel 1933 dal campione di tennis René Lacoste, la guerra aperta tra gli eredi. Si chiude oggi a Fiera Milano Ro Makers Italy, fiera laboratorio dedicata al mondo dei makers. Creativi tecnologici e digitali, innovatori fai da te, hobbisti e start-uppers con un'idea nel cassetto. Motto dell'evento? Smettetela di annoiarvi. Costruite qualcosa. È partita il 1 novembre e coinvolgerà per 6 mesi 14 comuni, 170.000 cittadini e oltre 130 esercizi commerciali. È la sfida all'ultima sport, iniziativa promossa dall'Associazione dei Comuni Virtuosi, che mira a ridurre il consumo dei sacchetti usa e getta. Il comune che registrerà il maggior numero di acquisti senza consumo di shopper monouso si aggiudicherà il premio di 20.000 euro per le scuole. Nel 2020 meno di un italiano su 100 sarà in grado di fare la pasta in casa. Secondo un'indagine della Confederazione Italiana Agricoltori, sono a rischio decine di specialità della tradizione. Dal pane alle fettuccine, passando per gnocchi, pici e pizzoccheri, nelle famiglie si stanno perdendo trucchi, segreti e saperi. La borsa della spesa. È arrivato il momento di dire basta. I germi possono annidarsi anche nel più pulito dei bagni. Funghetti. Bel colpo. Era facile. Stai attento ai pesci volanti, eh? Stai perdendo, papà. No! Sei terribile, papà. Ah, sì? Erano alcuni degli spot premiati quest'anno con il Child Guardian Award, il riconoscimento di Terre des Hommes per le pubblicità amiche dei bambini. Le pubblicità che hanno saputo, cioè, offrire l'immagine più corretta dei bambini, coniugando il rispetto dei diritti dell'infanzia con un linguaggio comunicativo efficace. I premiati di questa quinta edizione sono IKEA, Nikon, Menarini, Unilever e Nintendo. Trovate l'elenco e le motivazioni sul sito terredeshommes.it e sulla nostra pagina Facebook. L'autenticità è l'elemento che li ha uniti, ci dice Paolo Ferrara di Terre des Hommes Italia. La capacità di parlare ai bambini e alle loro famiglie mostrando un'immagine del bambino senza che questa diventi un uso strumentale. In genere quello che viene premiato dalla giuria di esperti è l'autenticità, la capacità di non usare appunto il bambino come strumento di vendita, ma inserirlo all'interno di un contesto che è quello quotidiano e soprattutto